Se tu sbagli e ti arrabbi da sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia. In amore ero ancora bambina, non ti ho detto mai che se ho perso pudore e paura è per te, lo sai. All'aurora mi sveglio cercando qualche cosa in me, poi raccolgo parole nel cuore per portarle a te. Tu nella mia vita, sempre tu, se non ti avessi ti vorrei, ti cercherei. Tu nella mia vita, solo tu, tutto il mio mondo sai dov'è. Vuoi stare con te? Se a una festa ti guarda qualcuno, la mia gelosia mi fa male, ripete più forte che sei solo mia. Io non posso pensare a una vita dove non ci sei, e il mio amore di tutti i miei sogni cosa ne farei? Tu nella mia vita, sempre tu, parla di te.